di sopra, il piazzale grande, poi c'è l'olivetto, il frutteto, il vigneto, e via per me. Ma mi piace a trasferirmi lì. Ragazzi, a me non mi piace la campagna, tu, devo essere sincero. Sono sempre da fare in campagna, ed io non ho giocato più di fanno. Chi c'è che piace? Sai che te l'hai pigliata? No, non è la mia, no. Ah, l'ho compreso. Sembra qua di fame. Capa. Però dai, è bello lì. Cioè, è bello. È bello a mangiare e arrostire, buh, per forza. A ciappare. Non so, Guglia. Vabbè, molto impegnativa la campagna, La campagna se la trascuri, è un casino, capito? Lo so. È così. La radio è sempre buona, è tu. Quella cannonata. Spinge, questa radio, cazzo. Si tratta alle bocche qua. Lo so, Guglia. È la già appena attesa. Adesso più scalda e più va. Lo so, disipatore da reddo. Sto già l'avvento in funzione. Break. Registrato avanti, buonasera Gianni. Come fa? Perché si rocco? Perché ho fumato troppo oggi. Oh, la sigaretta. Dai, come sta andando questa radio? 1, 2, 3, 4, 5. Ma io ti ascolto bene, tu come la scusa? Benissimo, sembra forte il radio. Forte la radio, anche tu. È un passaggio. Cazzo, non posso un filo che... sarà lungo 2 metri. Ma vero? Sì, non aveva fusato di quelli piccoli, ho preso questo qua che è grande, un bel. E di cosa? Di segnale quanto ti sta arrivando anche tu? Qua Franco ci sofferra. Sei quasi 9.40. Cala gara, noi ci va bene allora. Già, non ve ne arriva, un casino, la posizione sembra così, ma. Vuol dire un bel, mi sarai con l'antenna di gomma come esco. Antenna di gomma? Sì, io la chiamo antenna di gomma, ho cazzo po' che fai a tant'edda che... è buona. Mi che fai a voi? Ah, non ci starei giù a tutti gli altri. Oh, fammi da me. Non lo so, culo. Come? Che non lo so. Parla. Senta te che rovignare, però. Senza attaccare lineare, ma no, fa veda, domani, No, puttiglia con Claudio, cazzo. Ah, tu, mica ti bruci tanto, vai. No, sto facendo un raffronto tra me, tra te e lui. Tu c'è leggermente più forte, vabbè, ma sei pure più vicino. Io sono più... Però le romantane, dì la verità che le romantane. Andiamo. Con il pepina burro è entrata. Dai, che sto guardando la partita, ragazzi. Buonasera a tutti. Ciao, cosa sta facendo la Juve a proposito? Dove è su 5? Buonasera, Pisani. L'hai dato la palla, l'hai detto, te fai gol. Roba davanti, se si può giocare così, cazzo. Ciao, Ugarietto. Vabbè, che canale? No, è su Sky. Purtroppo... Beh, Lucariello, buonasera. Bobo, andiamo, gatto, metti di seguito, andiamo voi. Gianni, più forte di te sono, come mai? Io cerco di fare qualcosa. Ciao, Franco Calimone, senti qua la vita mia, gatto. Lucariello, dammi un rapporto di segnale, capo. Trappato sono, ma i pantaloni o la giacca? Sono rauco, boh, non lo so, qualche cosa non è chiara la radio. Sono rauco io, te l'ho detto che sono rauco, che ho fumato troppo. Già, ma c'è un problema con lui, non è rauco qua. Cosa? Ma sai che il problema è il tuo, non è rauco qua, Franco. Tu arrivi tranquillo, normale. E forse perché siete troppo vicini ti arrivo a rauco. Può essere. Claudio, come sta arrivando da te? Una canonata! Io non ritengo i nomi di rauco. La verità, io non sento. No, neanch'io, davvero. Neanch'io. Io sto pilotando il 608, sono con la corsia 80 adesso, La volta delle varie, poi non va la china a vedere. Adesso, ma io se passi in Antonio, poi non va la china a vedere, ma sto grovo. Avevetto, cazzo. Sempre la mania di raccontare i favori, vai, cazzo. Cazzo, no, era un basso. Un sacco, non lo sì. No, no, tu non passi niente, non è Franco, è tornato come prima. lo so. Allora provo a aumentare l'antenna per farla salire un po', vedi? Vamos! Dalle 2-0, vamos! Andando in la situazione, andando in mare. Sì, 2-0 andando. E Vicente l'ho morto, ma 2-0. Per carità. Tanto in Champions ci sono le migliori squadre del mondo, cosa pensi di fare? Cazzo, hanno eliminato l'Inter, che è una squadra, hanno eliminato Rovina, hanno eliminato Gatto Napoli, hanno eliminato tutti, adesso eliminano anche la Juve. Ma non l'hai visto? Ma ieri avete visto Barcellona Paris Saint Germain? Allucinante, 4 gol in casa ha pigliato lo Barcellona. Vabbè. Cazzo Franco, la massa te ne varia. Numero uno del Monte di nuovo, già ne hai perso il titolo. Posso ancora aumentare, mi. E aumenta ancora, facciamo lo smith. Scatta questa radio qua, 30 watt su 60 modulati. Adesso aumento, guarda. Aumenta, sì, a 9.30, no? Scappa. Prima o poi devo dormire tanto. Ma verrà vai a passarmi a tutto. Sei bonito, tu devi mettere di dubbio. Tanto non ce la fai, è troppo in alto, Franco. Lo so, purtroppo è così. Te l'ho già spiegato, tu. Non c'è cosa migliore di avere la posizione. Franco qua è stato sempre una bomba. Guarda, c'ho a Luca più vicino di lui. Ed è più forte ancora di Luca. Assolutamente, no, non ce n'è per nessuno. E c'è un'antenna del cazzo, mi, cosa va? Non ci caffuso, Guramanto va arrivi a 9.40. Non è mica tanto quel cavolo. Ehi, noi è una Mantova. Lo so, ma è buona. Ma c'è la posizione a tu, hai capito? Anche se l'antenna non è performante al 100%. Ma c'è la posizione buona, Franco. Più forte. Ma l'ho piazzato questa perché è più leggera, clacca. Non la giocare, vado mai a portare su, scendere giù, risalire. Uff. Ah, vabbè, così siamo quattro gatti. Poi... io vi do la notizia, così lo sapete, se non mi sentite non vi preoccupate, a 99,9%, un altro mese, due mesi e poi vado via da qua. E dove vai? Dove devo andare, in campagna. lì al manco puoi fare sui bianchi. No, ma per il momento preferisco sistemarmi bene la casa, farmi tutto quello che c'è da fare, poi se ne parlerà delle radio. Mi ha chiamato quello che è venuto a vedere la casa, mi ha dato la notizia appunto che la banca gli ha consentito il mutuo, quindi ci siamo, oramai ci siamo. Vabbè, meglio così, claro, dai, vendi quella, te ne prendi un'altra, la di una fuga. In campagna già si sta bene lo stesso. Sì, te ne prendi un'altra, viene 2 anni già che pigliata, è da finire, adesso la finiamo. Sì, piano piano, piano le cose già si rifanno, si risolvono, non c'è problema. In campagna sappi che per sempre da va. È tutta cemento la mia, non ha giù di nulla, non ha giù di far nulla io. Sì, vabbè, la terra, piantare, pomodori, questa cosa. Pomodori per la frutta e verdura, andiamo me con pareggio. Ma mi vostro conto, dice pianti pomodori, pianti limoni, pianti ghita, andare a buttare verdura per la fatica che c'è, me li compareggio. No, non me ne frega niente, lascia perdere. Già mi organizzo io, va, a buttare il vostro vedere mentre mi organizzo. L'importante è vada via da qua, questo condominio sta diventando un troiaio, non si può più stare, troppe spese, via, andiamo. Questo è un tubaglio di condominio, mi ho pagato una bella cifra, 120, più tutti i lavori perché sono proprietario, quindi tutti i lavori li devo pagare. Ah, pinnandi, certo, 120, quasi un affitto, meno della metà di un affitto. No, ma mi sono rotto le palle, stavo a voi, ma giù la gaggia da finire, cazzo, 150 metri quadri, ma è stato un obbligo, sto benissimo, però lì risparmio un sacco di soldi. Ma non credo via. E poi me la mangiano un bel, un bel, ma ci ho recuperato tutte le dinamiche. E dopo vai nello spin vicino, tabacchino lì, poi c'è lo spin, Mauris, a voglia. Tutto per Danieta vicino, cioè là. Lo sai Tullu, no, siamo, non siamo molto distanti, te l'ho già detto da, da casa di Marina. Sinistro, guarda, mi ha abbigliato 3-0. No, poi sto bene, io ci vado spesso, ce l'ho anche stamattina, no, non mi interessa. Speriamo che vada in porto, va. Incrociamo le dita, uscine poco tutto e ci abbiglia il culo. Ma Roberto in porta ha tirato. Ipa, due voci ha tirato in porta. 2-0 sta perdendo la Juve. E da voi sia, ma uno che non fuma, c'è su come c'ho le mani, mamma mia. Manda c'è spogliatore, male difendi. E allora, la cosa, la metti fai da spogliatori. E tu pone la parata. Ma avete parlato in due, cosa hai detto, Lupo? Ho detto che c'era poco in parata, entra la retromarcia. K. Cosa hai detto Anto che hai parlato assieme a Luca? Non ho capito niente. Siete tutti e tre cromate se segnali. No, non ho parlato io. Ah, chi ha parlato? Ha parlato Franco e Luca. Ma fra Luca ti ha rimatta una voce, ma Lugari è. Ehi, ma voglio si incuffato che ti vuole sapere a chi non fra. Ma là. Ci vuoi fare, ma la mano me la fottuta di pagare, se mi intendi di bene, se no pazienza. Franco qua passa anche a te, Luca. Ma poi ci si incuffato, diventa pure tu si incuffato. Perché a me poi dipende anche la... dipende anche dove il Vasco. Gianni, c'è ancora? Dove è Vasco? Perché? Dove è il Vasco? Il Vasco! Vabbè, magari la Claudia arrivi più forte lo stesso. Non lo so qua ce la fare. Tanto io vado 5 watt, 5 watt tondi tondi. Ma tanto io ne ho 8, mi 8 watt c'ho io, Franco una 50. Ma vabbè, ma ne bruciurà pure a 300. Ascolta, ma la vera prova che attacco l'elicottero a vedere che ti portano in caravana in aria, ah, bello bello. Vedi che attacco l'elicottero qui. Ma, e sa Franco qui? Ah, tu, attacco l'elicottero? Prova. No, l'ho staccato, l'ho staccato. È già dentro la scatola, non l'ha giubilato per giugare, che costa 700 euro chissà cosa. Scappa, ha provato questa ruba. No, ho messo dentro la scatola, l'ho togliere l'alimentatore. No, me l'ha fatta nuda, sto scherzando. Sto scherzando, io farò bene così, arrivo in capo al mondo. Non a Sassari, no. Tutta la Sardegna mi sente a me, quindi cosa cazzo me l'ha fatta di vagare? Non me l'ha fatta nuda a me, no. Anche le gare già ci vogliono. E che gare ci vogliono, uno vicino all'altro? Ah, non arriviamo a Calghero, Franco, anch'io, devo andare. Se siete uno attaccato all'altro, che cosa devo fare, Anto? Ma quelle cosa sono gare? Le gare sono da qui a Porto Torres, da qui a Alghero, da qui a Oristano, a vedere. Quelle sono gare, non uno vicino all'altro. Siete tutti vostri, uno vicino all'altro. Allora voi non arrivate da Sassari alla Landriga. Andrica già arrivo là. E comunque bisogna provare in distanza l'antenna, noi vicinanza. Quando l'antenna è buona, il segnale è buono, vuol dire l'altezza, vuol dire la zona. Il segnale si prova in lontananza, non in vicinanza. Ma è normale, non puoi fare i due, Antonio, io, Luca, siamo tutti attaccati, ne vuoi andare con Gianni, ma dove volete andare? Le prove si fanno fuori Sassari, no, dentro Sassari. Oppure con gente distante, capito? Ma io già mi difendo bene, non ce n'è problema. L'importante è che ci sentiamo. Doppio Roma! Cazzo l'avete demoralizzato a Gianni, cazzo? Adesso da giù già matto. Se l'avevi detto che stava ricevendo male, stava... Io non lo so quanto, è sempre colpa tua, Però sono dentro io, cioè dove intendere Rocco e noi no, che colpa ne abbiamo? Sarà andato a pigliarsi una aspirina. Appunto. Oi. E io gli ho fumato un casino, cazzo. Lì a Usci poi c'era un freddo, cazzo. Stavo facendo una cella su gelati, cazzo, ma veniva da morire. Ma gelati non ce n'era? No, gelati non ce n'erano. sì, vabbè, ci avete già detto una pezza di ghiaccio, va a far culo. Ah, certo, già va bene allora, dai. Era un amico, cazzo, non ho fatto. Ha detto, ora ti devo dare, dammi 100 euro, vai. Ma che c'è stata anche che ti do qualcosa di buono? Allora mi ha dato una forma di formaggio. No, vabbè. Tutto buono, eh. Devo usi. Dunque, a questo d'ora arrivo. A muro ci arrivo, quindi. Qualche cosa non tanta già l'ho fatta, dai. Ma quanto? Io arrivo fino alla Landrica, già va bene. Io non lo so se ci arriva Muros, boh. Sì, arrivi parlando di me, arrivi. Non lo so, no. Non ci ho mai parlato io. Ci arrivo io, tu arrivi molto più forte di me. Boh, e chi lo sa, chi lo sa, boh. Va, va. Esce di squadra di buffi, che è, che il ciugane può tornare a fare la giossa, ma non va lui a farlo. L'ha già regata in su, da torna giosso quando e tu cane si può sempre in giro, che dai, non collare, già esce la sua. Ma va, domani dopo 10 ore si compare già, visto che vuoi. E si conferma, io qua per quello sto in campagna, solo per quello, per stare più tranquillo e sereno anche col cane. Un lavoro, cazzo, un lavoro, la mattina, la sera, la notte, cazzo, che palle. Ce l'avevo in campagna, cazzo, l'ho portato su qua, per pigliare freddo, cazzo, invece mi sta costando un lavoro a me. Quando ero in campagna ero più tranquillo. E si conferma, e si conferma. Lugarie. Ma c'era caro caro battato, addirittura, che non è buono. Allora pensavo che cosa era più, un cane più grande, più, come c'è un pacchiotto, Filippo, che bello che è. È bello, visto? Cicciottello, un po' muscoloso, grande, se lo vedevi quando era giovine, era un combattente. Adesso poverino è in pensione, l'abbiamo mandato. Questo Filippo, un garrello attaccato alla vetturina, tirava 150 kg. Vuole che andrà più giovanotta, ma non conviene più bambino. Adesso no, non ce la fa più. Dai, c'è un break, fatelo entrare, io rimango in QRX che finisco di guardarmi la partita. Avanti in break, buonasera. Capa, buonasera, che caro Gito, buonasera, avanti fra. Ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato, 5-9 il tuo rapporto di segnale. Fa la cortesia se puoi contraccambiarmelo, grazie. Questa sera riprendo io, dai. Ok, grazie Claudio, vai a tu. Capa, capa, saluto di Claudio, mi hai sentito? Ti arrivo bene anche io a Muros. E vado a vedere se come sono adesso, perché ho lontano il microfono. E qualche picco di modulazione. Quanto è franco sto arrivando, giusto? Sì, ho piazzato l'antenna sul tetto. Un'antenna in gomma. Però ho visto che già funziona, dai. E KK, no, adesso già, sia io che lui già. Soprattutto lui che c'aveva l'antenna, era forse di pure, qualcosa del genere. Adesso riesce a parlare con tutti, dai. Santiago 8 e Radio 5. Sì, volevo fare una prova, vabbè, adesso non ho voglia di alzarmi. Volevo provare una questione, avevo quanto arrivavo più quella cosa, ma adesso non ho voglia, sono coricato e mi sto rilasciando. Sì. Buonasera, riprendo io, sì, infatti. Vabbè, io sto pilotando con 20-50 watt modulati, KK, oggi va abbastanza bene, cavolo. Arrivi bene a Sassari, la verità. Vabbè, io sono in questione un pochettino meno, cioè, ma lui Franco è in una zona migliore della mia, ha più apertura di rispetto a me, però dai, già va bene lo stesso. Santiago 9, no, sempre a Sassari, eh. Quando ti arrivo? Claudio, vedi adesso quando ti arrivo. Questa è la prima posizione. Adesso sto pilotando quasi 100 watt modulati. +5, +9, +10. Sei in disaccordo qua, perché io ti ascolto, Saturo. Ciao, chi ho? Ehi, gappa. Sì, vabbè, stai arrivando a Conte Antonio qua, quindi sei quasi 9:30, perciò non problemi, non ce ne so. Avanti Gianni che ti ha salutato. Ehi, sono rientrato. Ciao Chiodo, ben sentito, cordialità. La radio come va, Chiodo, in quella zona? Avete parlato in quattro già stai andando bene del radio, il cavo messo l'hai. Che cavo? Il cavo, cambiato là il microfono. Sì. Ed è questo qua il microfono. Cappa. Sta andando bene. Ottimo per la truppa, non c'è problema. Ma non ho trovato quello corto, ho trovato quello di 2 metri, cazzo, proprio su guacale, dovete girarmi e tutto. E boh che long. Ma non potevi fare la misura, scusa. No, e poi non avanza il pezzo per saldare, si è più avanzato questi ricciolini. Ah, lo spiralato hai trovato. Quello spiralato, sì. Ah, vabbè, allora te ne affutti. L'importante è non ti si griglioreggia. No, quello no. Ah, sei più comodo perché non lo devo tirare quando sono a letto. Vabbè, stai attento, non ti si griglioreggia la pirchiriola. No, quello non c'è problema. Non c'è nessun problema, vero Franco, avanti. Non so se mi ascolti, boh. Ti ascolto, sì. Però ti sento rocco, non lo so se riprenda la me, boh. Rocco ti sento, forse come si è attaccato. E ora gioco attaccato. Sto usando il 680 io, non sono attaccato. Sto uscendo 50 modulati 100, cosa vuoi che sia? Adesso si è uscito chiaro. A secondo come la voce, a volte arriva, a volte non arriva, Ragazzi, tutti 50 watt, l'importante, io già te ne vai. Se si è attaccato, abbassala quella radio, vedi che le distruggete, cazzo. Le distruggete quella radio, 10 watt vanno bene, modulati 30-40. Allora, sai che mi sposto che abbasso. Abbassa la fraga, te la mangi quella radio, non serve a niente tenerla 50 watt di portante. Sfrutti il finale, pannuda, la buona adesivate, va benissimo, io guardo sempre, 140 soprattutto massimo, 20 watt, 15 watt, 50 modulati, non serve a niente. Avanti Antonio. Capo. Ma secondo me è troppo. L'ho abbassata a 10 watt, 20 modulati. Guarda quanto è più bella la radio anche, confermi già. È normale, fra, è troppo, non glieli dare così, sfrutti troppo il finale, te ne mangia la radio. Va bene 10 watt, massimo 20, lo sai, no? Abbiamo sempre stabilito così con quelle radio, se la metti a 50 te la mangi. La prima cosa mai detto tecnica a me quando mi ha revisionato il 140, mi ha detto Claudio, questa radio è nuova, fenomenale. Mi raccomando, massima potenza radio calda, la regola è a 20 watt, non di più, perché ha dei picchi anche a 100, quindi cosa mi fai? Va bene così. Avanti Chiodo! Segnale quant'è adesso, Chiodo? Vabbè, sto pilotando 10-20 modulati. Già passano. Passano 10-15 massimo che puoi dare fra. Se non si sputa troppo, non andrà bene. Stavo dicendo, Cla, con l'amplificatore questa qua quanto lo devi pilotare? A 10 watt, così? No, fra, devi considerare il picco di modulazione. Se devi salvare un po' a 10 watt, te ne dai 50, lo crepi lineare. Linealetto così lo crepi, ma non serve a niente, questi linealetti così, 747, B3C, cosa serve? Non servono a niente con queste radio, con quella lì, perché io non ne ho. Io sto andando col Galaxy, ho 8 watt modulati 12, quindi vado benissimo. però non ha nessun senso, Fra, perché quando tu vai a attaccare un 747 a quella radio, ti dà gli stessi watt che ti dà quella radio con 50 watt di portante. A cosa serve? A niente, magari c'è il rischio pure che bruci finale qua. Per bruciare sia il finale della radio con un rientro di RF che può succedere, sia il lineare, non serve a niente, Fra. Rimane il fatto che con quella radio puoi attaccare un bel amplificatore, per dire, da 600-700 watt, con un ingresso, per dire, da 10 watt, allora stai sfruttando poco la radio e sfrutti l'amplificatore. Ma quando tu mi buoni un 747 che dà 80 watt, quando chi sa radio ne ha tanto di importante, cosa te ne vai? Non servi a nulla. Ma infatti, lo lascio così, va benissimo. Spinge un bel questa radio. A me lo dì, te lo giuro a te, io la spinge. La radio c'ha picchi anche di 150 watt. Questa è quella che va fatto l'uomo dal monte, no? Esatto, la radio l'ho comprata nuova io, Carlo mi aveva dato una sistemata perché ancora non ero capace. Adesso già me la so fare io perché me l'ha segnato lui, ma quelle due cosette, niente di che, però quella è stata fatta da lui, tienila così perché è una canonata quella radio, e poi è nuova, comprata da me nuova, la giugo un paradiso e da te, quindi vedi tu. Avanti, doppio room. Gianni. Via. Mi serve questi 80, Fra. Sì, che tu non lo do a nessuno, ma nemmeno se me ne dai 0,20 te ne do, ti dico. Sto scherzando perché lo so che non lo dà nessuno. Quella radio, Franco, c'ha un motto con me, se la deve dare deve ritornare qua. Non la do a nessuno, questa radio c'ha, quanti anni c'ha questa radio? Adesso te lo dico, questa radio c'ha più di 8 anni. 8 anni? Ma si intende? Cosa di aziende? Sono 10 anni qua io, Fra. Ma la stai dicendo, sono quella io, te la curavo, te l'ho fatta quando ero in via Pascoli. Sono più di 10 anni. E ci conferma, sì. E ce l'avevo sempre ferma, non la stavo mai utilizzando nell'armadio. Non gli ho fatto niente, l'ho rimontata, l'ho dato una spolverata e va benissimo. L'unica cosa che gli ho fatto è gli ho pulito la ventola, basta. La ventola va pulita ogni tanto, perché così è meno rumorosa, più silenziosa e raffredda anche meglio. Capito? Tutto qua. KK. E io ne ho venduto due a 140 già, se ti serviva. Quelli che ho dato erano come quella, guarda, né più né meno. Stessa radio, quella c'è la scheda di cementi, non te ne vai nulla, che intanto senza antenna. Non ricevi con la manta vai cementi o con qualsiasi antenna, ci vuole l'antenna per i cementi perché è particolare con la frequenza. Però una l'ho data qua. Lascia perdere, nuova, cazzo, nuovo, l'altro ricatto. Vabbè, avanti, chiodo, riprendi. Funzionano sempre con le radio, funzionano sempre. No, io ho venduto sia il 440 e 240, mi sono tenuto il 430 e proprio stamattina ero al telefono col tecnico, mi sta cambiando tutto il kit delle spinette interne, mi sta facendo una bella revisione e arriverà sicuramente prima di fine mese. Te l'ho detto di non mettersi fretta, intanto io ne ho dei baracchini da usare. Dopodiché rimane lì altri 10 anni senza fare mai niente. Va bene, avanti Gianni. Ehi. Un secondo solo che sto facendo una cosa. Datemi un secondo. Ah, ribadisco che a livello radio sono radio mondiali questi della Kim, no, meglio i baracchini e tutto qua. Anche i baracchini, vabbè, secondo che i baracchini sono, già vanno bene. Ok, c'è stato un break, avanti con la buonasera. Buonasera a tutti da Caimano. Ciao Caimano, buonasera, in compagnia mia di Claudio Chioda Rugginito, Gianni Doppio Ru, Antonio Bombolo e Claudio Sparviero, vai. Avete rilasciato a me, ciao, buonasera, Caimano di nome, questo Caimano non mi piace, come ti chiami di nome, buonasera. Ah, ecco il famoso Emiliano che ogni tanto mi parla qualcuno di Porto Torre, ce l'hai fatta a montare questa antenna, sì. E non è il massimo, ma oggi arrivi come segnale qua. Non so se senti bene a me, qua sei quasi Santiago Nova, Radio 5. No, no, Emiliano, tranquillo, la radio è 5, solo che è un po' bassina, non è un granché, capito? Ti mando avanti a girare, quindi vai prima Franco, poi rilanci Antonio e Antonio vai per Claudio, vai Fra. Ok, dai. Ecco mi ha cominciato arrivando lì a Porto Torres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Gappa. Vai Antu. Gappa, salutone Emiliano a Porto Torres. Emiliano, hai sentito Antonio? Grande, adesso sì, puoi abbassare anche leggermente il mic. Sì, sì, va bene. Vai Chiodo, vediamo se ti sente il Porto Torres. Non ho capito, sono un guardone. Basso basso. Sono qua con altri quattro, però sono ricordo, sono un guardone. E non ho capito neanche quello che ha detto. Ma cosa stiamo parlando? Da Muros, Emiliano, da Muros. Lasciala così la radio, Emiliano, che adesso va bene. Da Muros. Capo, c'è Gianni mi pare. Avanti già. Ehi, avanti, ciao Emiliano, ben sentito e cordialità. La stazione del più rum, avanti. Emiliano, la cadere dice che aiuto. Già me l'ha detto, che eri letargo, eri. Comunque dai, cercate di far entrare un po' di gente a Porto Torres, che siete dei morti. O devo venire io? Ah? Mica se vengo io poi ve ne pentite, eh? Metto l'antenna a casa di mamma. Ce lo sapete, sì? Ti ricordi, sì? Da lì da via Cavour c'erano sempre i fuochi d'artificio la sera, eh? Vabbè. Povero Giampaolo già si ricorda, due battaglie, guardiamo. Cesci. Va bene, allora, Chiodo quindi ti sente a livello di QRM Porto Torres, ma sicuramente la zona appunto devi superare un po' di ostacoli per arrivare lì, ma Emiliano sta arrivando fortissimo qua, eh. 5-9, segnale per te. Allora, cambio per Gianni, che è l'ultimo che è entrato. Vai già. Gianni sta facendo qualcosa. Riprendi tu, Fra, vai. Ok, Emiliano, rapporto di segnale, te lo contraccambio. 5-8-9, qua, zona Materosello Alto, la mia zona modulazione. Vai, Chiodo. Gappa. Io lo sento, amico laboratore, se lo sento... 7-8, a picchi di 8, dai, abbastanza bene. Dove avete Emilia? Sempre lì? No, non avevo avuto la mamma, non avevo avuto la mamma. Ah, c'era il pozzi, sì. Di fronte a mio fratello, sì, allora. Che via è? Via Ulivi, Ciclone, che via è? Non si qua. Lui è via del Mirto, quindi siete lì, dai. No, arrivi bene, sei davanti a me, 5-9 con picchi positivi anche di più, radio Super 5, vai Fra. Sì, l'ascolto bene, arriva, c'è un bel segnale qua, 5-8, 5-9 modulato, di lusso, andava, vediamo un po' se Gianni ha sistemato, vai Gianni. Gianni, lasciatelo sistemare, vai Chiodo. Gappa. Emiliano, come senti lì a Porto Torres? Come finiamo? La rama chiusa, la rama pronta, basta. Proprio pronta. Come radio bassa. E tu, non è che la radio è uguale a quella di Sassari, eh? Radio bassa cosa vuoi dire? Che non sta... non è forte, Emiliano. Perché c'è il segnale basso, quindi la radio è per quello alto. Se avessi avuto il segnale più alto, la radio era più alta, normale. Ma già ti sente bene adesso, non c'è problema. Capo, no, già lo sento io già. No, casetta, vedi? Ora. Ora. Adesso è migliorata la radio, Emilia. Sicuramente, boh, ce l'ho, quella zona lì ce l'ho un pochettino, magari ce l'ho in quel punto lì, ce l'ho un pochettino tappato, ce l'ho, però, boh, già dovrei, da Eugenio forse arrivo un po' meglio, arrivo. Ma tu lo sai di essere a Ripuzzi, Eugenio è nella strada, dopo Porto Torres, è molto più vicino. C'era Ripuzzi all'interno di Porto Torres Antu. Io arrivo così perché lo vedo, c'era Ripuzzi, io lo vedo. Io mi sa di no, purtroppo no. Non lo puoi mai vedere, dove c'è la televisione è lì, capito? Non lo puoi mai vedere. Mentre Eugenio è fuori Porto Torres, è nella strada, è a Lilioni Eugenio, quindi è chiaro che arrivi meglio. Io non, no, sicuramente ho qualche problemino a sorso, ho notato, e adesso bisogna che appena che metto il palo più alto, perché sicuramente ho bisogno un po' più di altezza, dopo diventare un fosso in occhi. E si conferma, e vabbè, ve l'ho detto, le prove si fanno fuori sassere, no, uno attaccato all'altro, queste si vedono i risultati, cioè, quando uno c'è una zona diversa, quando uno è più aperto, più chiuso, non puoi fare le comparazioni dentro sassere siamo tutti forti, anche se uno attaccato all'altro, poi vedi, entra uno di fuori e le prove sono queste, non c'è niente da fare. Avanti Franco Franchi. E se conferma è così. Altro anche perché c'è un'antenna che non c'ha radiali, capito? Quindi non è che puoi pretendere più di tanto. Quelle antenne lì io ce l'avevo. L'ho regalata una di quell'antenna lì. Okay. Io non l'avrei mai montata quell'antenna. Ma non l'ho voluta mai piazzare, l'ho provata in campagna, ho visto che non andava e ce l'ho buttata da una parte, tutto lì. Ok, dai, vediamo Gianni se riprende, vai Gianni se va a dormire. Riprendi qua. Però non sono dello stesso parere tuo. Cosa che tu? Non sono d'accordo. E perché? Perché no, perché l'antenna rende, la colpa è la mia che non ho posizione. Ma altro non lo so, boh. Secondo me se metti un altro tipo di antenna rende di più, poi fai come vuoi. No, fra, perché io per esempio, te ne faccio uno di esempio, io avevo la boomerang, la matessi c'è, la matessi cosa, cioè, mi dà Gianni lo profeta, e c'è la Luca, e cambia totalmente la situazione, com'è possibile, perché loro hanno più posizione di me, se io stato in chi va la trazione, avrebbe cambiato, dal giorno alla notte avrebbe cambiato. Purtroppo sono contento in occhi, è un casino, io me ne rendo conto, mi sto facendo i miracoli. Adesso questa è la zona chiusa lì, purtroppo. Vabbè, con Sassari riesci a parlarci bene, ma in lontananza magari arrivi più basso per quello, capito? Perché ci sono i palazzi che ti ostacolano il segnale. Cioè, com'è possibile che Gianni Rubrofetta arriva più forte di me con la bumera? Perché lui ha la stazione tutta meglio. Qua sono contenta, qua devo cercare di mettere... Devo cercare di mettere qualche palo più alto, perché non è possibile, perché non riesco a avere quello che voglio. Ma dov'è che arriva Gianni un profeta più forte di te? È un po' più forte di me, ce l'ha, c'ha più posizione di me, per dire. C'ha più posizione di me, se la metterei io nel suo palazzo, guarda, là esce un buon davvero. Perché è tutto aperto lì? Ma no. Io non ho sono diventato un morso. Ma io ti ho chiesto, dov'è che arriva più forte di te? Dentro Sassari? E anche fuori, purtroppo. Ah, boh, qua arrivi più forte tu di lui. Ma senza ombra di dubbio, perché, insomma, qualche metro in più ce l'ho di antenna. Però in proporzione, in certe cose lui arriva più vari punti a me, mi che fate, mi arriva più forte di me. Perché? Perché è aperto. C'è l'antenna sopra il tetto, Anto, e poi più aperto il tetto, l'ho già detto, è inutile che stiamo sempre a parlare delle stesse cose. Non c'è niente da fare, tu anche lì se metti altre 2-4 metri di tubo attorno, non vai da nessuna parte, mi te lo sto dicendo. Recuperi qualche punto S in città, ma poca roba, la posizione tua è quella, e lì devi stare. O ti sei su una casa più, che abbia più zona, capito? Allora è diverso, se no non c'è niente da fare, le posizioni sono quelle. Non è questa critica. E cosa deve dire Claudio allora? Claudio è nella piazza, eppure arriva qua, mi arriva fortissimo. Da voi magari arriva più basso, in altre zone arriva bene, in altre zone arriva male, ma è nella piazza di Muros, cioè se avessi abitato su nella montagnetta, sai come arrivava a Sassari? Una schioppettata. Vai Claudio. Questa è la riprendo io e si conferma che così fa, in definitiva. Qua io ho montato un'antenna che costa 56 euro, l'ho presa in seconda mano nuova, l'ho pagata 35 euro. L'ho provata a qua, ho visto che funzionava e ce l'ho portata sul tetto. Quindi tu hai fatto un affare. Hai fatto un affare perché con 35 euro ti sei messo in condizione di farti sentire da tutti di nuovo. Va bene, ma le Mantova sono ancora molto ricercate, però il mercato mi sa che ce ne sono poche in circolazione. E vabbè, io ce l'ho revisionata, pronta a piazzare, quando una volta che ho sistemato tutto, che mi faccio la sala radio nuova, allora monterò l'antenna per il momento. Sarà così, dai, avanti. Emilia, vuoi riprendere? Sì, che ti sente? Santiago 5 ti sente. Però qua, Santiago 5 lo senti Emiliano. Hai sentito Emiliano? Basta, sono di correre. Qua sei 7, sì. Vai alla grande vai, Emiliano. Adesso. E lo senti il 8? No, io anche 6-8. E qua sei salito a più di 9. Adesso sei sceso dei segnali, cos'è Ducato? Lasciala così, no, non c'è bisogno di... Già ti sentiamo lo stesso. Doppio rumo, vuoi riprendere? Se no riprendi tu fra. E già ne avessi al telefono, dai, riprendi tu fra. Questa è si conferma. Sì, Antu, è la zona, anche se sono lì, quindi non risulta come ha detto Claudio. Purtroppo c'è zona molto chiusa, capito? Magari in certe posizioni riesce ad arrivare forte, in certe posizioni riesce ad arrivare basso, però anche se metti il tubo non penso che risulti più di tanto. Una cosa recupererò, qualche cosa, però no. Cioè, non è che l'andrà più di tanto, no. Però che non fosse una cosa, guarda al centrotetto, qua è la piazza lì. Allora potrebbe cambiare la situazione. Provo a fare così a vedere se migliori. Ma qua stai arrivando bene, che chiaramente lontananza è diverso. Proprio un problema di posizione, perché invece è viceversa, nella zona di Via d'Italia lì ho tanto che arrivo fortissimo, arrivo. Evidentemente c'ho proprio, è proprio aperto lì, ma forte però me. C'era una cosa l'altro giorno che un mantenito del capo dice che gli arrivavo dentro casa, che era una cosa impressionante. Antonio Grobbe. Ma non c'è più di Antonio Grobbe, Antonio. Ma stai parlando sempre in vicinanza, come tra te e Franco, tra me e te, tra te e Gianni, sei sempre vicino. Quando tu piazzi l'antenna, le prove si fanno fuori dalla città, o in lontananza, vedi con Muros, con Porto Torres, con Sosso, con Alghero, non si fanno in città non serve a niente fare le prove, capito? Ma io ti dimostro che anche in città, se tu sei attaccato a Franco, io attacco 500-600 watt e Franco tu non lo senti più, non serve a niente, capito? In città i controlli non si danno, non servi a nulla, va proprio, le prove devi farle fuori. Se tu monti l'antenna a centrotetto per dire a Claudio Di Muro se avessero l'arrivi 8 e poi con l'antenna messa diversamente gli arrivi 9, allora è migliorato. Ma devi chiedere fuori, non in città, tu in città non scevi a nuda, te l'ho già spiegato. Lo so. Però io ho fatto il calcolo, sicuramente, perché non modula nessuno, ma sicuramente in qualche paese io arrivo molto più forte di magari di Porto Torres pure. Sto pensando che a Rossi sicuramente arrivo meglio di Porto Torres pure, perché in quella direzione là io ho notato, in quella direzione verso là arrivo un bel forte, arrivo. Sicuramente, perché non c'è nessuno, sicuramente in quel tipo di zona, io a Muro arrivo 9,5 la cosa, da cambio, va bene, dai, sicuramente in quella zona là sono molto più favorevole. Non ho capito, a chi è che arrivi 9,5? Claudio da Muro, sai che l'ho arrugginito. Ah, Claudio da Muro, se lo capisci, sì. Ho capito. Vabbè, ma Claudio a volte usa delle radio che hanno una taratura, lui ne ha tante radio, quindi le usa tutte, un giorno ne ha una, un giorno ne ha l'altra, capito? E quindi uno c'ha una taratura di Schmitter, una ne ha un'altra, e qui è così. Però dai Antonio, non ti puoi lamentare, te le mando bene, mamma, ti stai facendo sempre, sei quel cattivo, ma cosa ti nafuti, va bene, vai benissimo da tutte le parti, non c'è problema, a futtidini, avanti Muroso. Capo, sicuramente forse dovrei arrivare molto forte, cioè non molto forte, ma dovrei arrivare bene proprio. Perché la direzione è quella, la direzione di dove io arrivo più forte. Io adesso non lo so, non c'è nessuno che va in certi posti per fare il confronto. Perché non lo so io da dove mi sento, da dove iniziano a sentirmi. Non lo saccio, tanto comunque per me te ne vanno bene. Sei 9 più 30 qua, tranquillo, non c'è problema. Primo giorno che sei entrato arrivavi Santiago 9, poi arrivi 9,10, poi 9,15, 9,20, poi sei 9,30, fra poco arrivi 9,40, due già vuoi di più, Luccano. Avanti Emilia, riprendi. Allora, fra un po' ci diamo la mano con le radio, con Antonio, c'è un segnalone qua, non ce n'è problema. Chiaramente in una zona un po' centro storico, quindi rimane un po' più chiuso rispetto ad altri, ma già va bene, dai, va bene. Avanti, fra, riprendi. Si conferma. Altro sta arrivando 9,40 qua, quasi 9,45 al 680. La radio è buona, sta facendo bene, cioè non ho... più di così cosa vuoi pretendere? Per la zona che sei sta arrivando anche troppo presto. Capo, ho promesso che forse ne ho un'altra, mi ha promesso di... come si chiamava quella zona dove c'era il panificio Calvia una volta, Mauro Calvia? Te lo ricordi, Ofra? Piazza Elisabetta? No, non è Isavia. Aspetta, mi ha promesso che ce n'è una lì, ma ancora non mi ha detto una. Ma io non avevo mai vegliato un casino. Dico che mi hai preso una casa in una zona aperta, una zona bella, lì sei chiuso a tu. L'hai visto un diabete così? Già l'ho visto, questa colonna Mariani, dove l'hai fatto vedere l'altro giorno? Magari, è più giù di questa colonna Mariani, magari ho stato in Kiwing, su Barazzone, mia. Già l'ho visto, dove l'hai fatto vedere l'antenna? Papà. Sì. Avanti chiodo. Sicuramente sì. Cazzo. Adesso devi avvento l'entrata. È normale, deve entrare. Quindi sentimi appena che ci ha buffato la ritta, ma di cosa c'ha goccia. E quella deve entrare in funzione, non entra in funzione quella si fa tutto. se va in protezione. Può andare in protezione, se va in protezione all'istante, se continui a parlare puoi bruciare in alto. Ma cosa ne boh, Google, 80 euro l'uno, cazzo. Gli originali. Gli originali. Cazzo, li costavano i bobbici. Adesso costano 80 euro l'uno. Ricordati sempre, ogni tanto uno sguardo alla ventola, appoggia l'orecchietta e controlla se è in funzione, perché è molto importante. Mamma mia, io qua, come vedi non li ho ventoli, io gli alimentatori ce li ho lontani, ho fatto una base sotto proprio per il posto degli alimentatori su quello elettrico, non li voglio vedere vicino perché già io uso microfoni amplificati e quindi è un casino. Poi vabbè, non sto usando il K perché non ce l'ho che al centro assistenza, sto usando il Galaxy Saturn Echo con il Tanne più 3, quindi percepisce qualsiasi rumore, figura di luce, viso l'alimentatore funzioni. Infatti non vedo l'ora di che arrivi la radio, io ho la linea completa, ho il PS50, l'attacco lì, che non ce n'è lì di problema di rumori di ventola, assolutamente. I switch che sono una gli alimentatori così schifosi, un click di ventoli, poi ce n'è certi che quando schiacci il PTT aumenta ancora di più la ventola, mai visti di Efra? E c'è la ventola, ne avevo originale da durante, ne faceva poco casino. No, io sto utilizzando il coso, il PS53 adesso, con la T250. No, andiamo bene, qui io ho il PS50 della linea del 430. Sì, io me ne ho copiato due Gigi da 50 ampere per usare l'amplificatore che ho, quello a 24 volts. Ah no, si bottinina, ci sta accaduto tutto, ma cazzo Bari è un drone, Bari, quando si c'è abortate batti in vento, fare un elicottero, vai dentro l'armadio, vai. È un bel fastidioso, a me mi dà troppo fastidio. Vabbè, se c'è le cuffie non le senti, ma senza cuffie sono fastidiosi. Io ce l'ho buttata da una parte, quello che ho comprato dai cinesi, quell'alimentatore da 30 ampere, ce l'ho buttata da una parte, faceva un casino della Madonna. Più andava e più aumentava il rumore, ho provato a cambiare la ventola, non servono quegli alimentatori. No, io quello, l'amplificatore lo uso, non c'è propagazione. Lo collego con la radio, con la modificata e mi diverto. Adesso non ce n'è bisogno di attaccare nulla. Non ce n'è bisogno. Ci sentiamo tutti e va bene così. Però già ne ho di bella roba. Avanti, il chiodo. E siamo a questo evento, le funzioni mi danno fastidio, quindi preferisco staccarle, dai. Va bene signori, dai, io vi saluto, sono le 11:15, vado a vedermi un po' di TV e poi a nanna che domani mi va a alzare presto. Ciao Franco, ciao Chiodo, ciao Antonio, ciao Emiliano, ciao anche a Gianni, salutatemelo. Il cambio per te Emiliano, io chiudo, buonanotte a tutti e a domani. Avanti Emiliano. Buonanotte a tutti, buonanotte a tutti. Buonasera, riprendo io. Ciao Emilia, buonanotte, ce la di ascoltare il prossimo. Ciao Claudio, buonanotte, saluto il correato da parte mia. E rilancio la microfonia a Antonio Bombolo. Vai Bombolo per i soldi. Salutoni Claudio. Ma che Emiliano stava chiudendo? No, saluto neanche Emiliano. Buonanotte. Avanti, chi tocca? Ok, Quascelle. Ciao Chiodo, dai, ce la di ascoltare domani. Ciao Claudio, buonanotte. Anche a te, saluta a tuo padre, anche da parte mia. Ok, vai a tu. Salutone Claudio, ci sentiamo in prossimine. Ma non c'è più Gianni? Non so, Gianni, sicuramente Gianni lo sta facendo ancora, si è dormito. Sicuramente dopo bussarlo, perché no mi riposo un po' perché c'è un sacco molto. Per il treno ieri, forse raggio più grana qua. qua, credimi. Niente, cosa vuoi qua? E quel lavoro pesante il tuo, cazzo, è un casino. Ora non so, è un lavoraccio. Ma quando vai, non puoi fare un carrello a motore, basta se li va a muro. Quello è il lavoro, te lo dici qua. Quando vai ai 60 anni vai a china a pisti. Anche Pizzolotti non era così, aveva un po' di problemi. Lo so, è un lavoro pesante quello. Capa, ma lui si è ritirato, adesso pure lui. Quello lo conosci? Capa? Si è ritirato, si è. Adesso è in pensione pure lui, l'ha data un'altra cosa, Valerio l'ha dato il negozio e loro si sono ritirati tutti. Oh, io lavoro troppo pesante e vabbè, ma incanto l'altro, però purtroppo bisogna lavorare, se non travaglio non vai di là, è un problema, fuori, capito? Però non sai cosa vuoi fare, lui si è ritirato, sta guardando la pensione perché gli ha morto la moglie, quindi capito. Gianni, oh Gianni, va a scegliere drombi davvero. Io mi stavo guardando quel film, mi faccio la televisione, ma sì, se no. Un film della Baidelle. Allora, adesso l'ha giusto da tutti quattro per la voce sul video. Mamma mia. Ma sono contento che non stai molto, ne hai messo di palo. Ma? Quanto ne hai messo di palo nell'antenna tua? Ma io c'avevo un palo telescopico da 6 metri. Mi ha lasciato, diciamo, un metro, 2 metri sotto, no, 1 metro sotto e salito a 5 metri. Già va bene la voglia. La volevo mettere più alta, ma ho superato l'antenna TV di 1 metro, di quasi 2 metri, l'antenna TV che è bassa. E l'ho portata su, comunque TV e non è fa e va bene. No, non è fa, no, no, quando sono alte. Proprio quando tu masci che è un casino. Ma diciamo adesso è difficile che disturbano. Col satellite è tutta un'altra cosa, non è come prima, che se delle visioni invece valvolari. Disturbano perché io ho sempre superato le antenne TV, io le ho superate di un po', Quando le superi almeno di 1 metro dall'antenna, anche 1 metro e mezzo, più le superi meglio è. Ma anche quando lo sali a 2 metri dall'antenna va bene. Sì, sì. E se no stai tra i televisori, faccio, è un casino. Adesso è difficile che entri, col decoro incorporato, capito? Tutto diverso, adesso è in digitale, anche, non è come te prima. No? Sì, se piazza da, cioè, con la stormo rientravo. Kappa, ma io sento gente sotto, cazzo. No, non sento nessuno. Ma io sento gente modulando sotto. Non sono quelli di Ozzieri, no? Boh. Perché me l'hanno detto. Ma si capisce niente quello che stanno dicendo. Dai, Kappa. Ma sì, magari, non sono Sassari, no. E Kappa, è così. È così, sì. Voglia. Dicono che fa, prima volta che in qualche paese fuori di Sassari dicono che fanno il PSO qua. E si conferma. E così. E domani al lavoro? E già non credo via. Anche la intera, la stai in mezzo. No. Alle 6 sono già pronto, alle 7 viene a prendermi, dai. Andiamo su. Alle 7. Esatto. E quante ore fai? Rombè. Ma la macchina portata si paga dove? Puro. Se fai un rombè ti pare che si paga dove? Fai un mappillo, ma non può fare quel dato. E oggi ha compreso, non fai bisogno di migliorare, dai. Ho capito al volo, anche tu, tranquillo, sono tutti in uscita. Quella voglia di uscita non ti abbigli in culo. Quello è il problema, ma no, non la trovo neanche una cosa giusta. Uno si spacca le ossa e poi per prendere cose e stessi soldi. Io quando lavoravo con Zanussi non ne facevo più ore in più perché non le pagavano queste ordinarie. Quando me le pagavano le facevo, quando le pagavano le facevo. Io facevo dalle 8 a volte anche alle 11, 11 e mezza. Lo so, Guglia, per carità. Io quando avevo a contare la cuzzina alla locanda. E alla locanda? andare giù, puglia. Me l'ho girato bei posti io, tu. Mamma mia. E che, buonasera. Ciao Tino. Ma cosa Tino, fra? Ciao Tonino. Grazie, mi pare Dino, mi pare. Ciao Tonino, buonasera. Ah, mi ascolti con questa tenda in gomma, tu sì? Arrivi fino dentro a casa. Che dentro a casa? Come ti porto dentro a casa, cazzo? Sei sceso down?